Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera, benvenuti a Mr. Kilowatt da Maurizio Melis. Quanta energia c'è nelle onde del mare? Beh, di sicuro ce n'è moltissima, ma non sempre all'abbondanza di una fonte energetica corrisponde altrettanta facilità nel raccoglierla e sfruttarla, per esempio, per produrre elettricità. Le sperimentazioni in questo settore però sono in corso da diversi anni e siamo finalmente al decollo di progetti anche molto ambiziosi. In Scozia, per esempio, sono stati selezionati 10 progetti per 1200 megawatt complessivi, più del totale della potenza fotovoltaica installata ad oggi in Italia, dove tuttavia qualcosa si sta muovendo. Ne parliamo con Vincenzo Franzitta, ricercatore del Dipartimento di Ricerche Energetiche e Ambientali dell'Università di Palermo, impegnato nel progetto Impetus, che vedrà nascere a Trapani la prima applicazione italiana in questo settore. Buonasera Franzitta. Buonasera a voi. Allora, quanta energia c'è nelle onde? Ma guardate, per avere un'idea, un confronto quindi tra quello che è il potenziale energetico del moto ondoso e confrontarlo con quello di altre due forme rinnovabili tradizionali come l'eolico e il fotovoltaico, da studi che noi abbiamo fatto rispetto quindi al potenziale del Mediterraneo, quindi con un mare con le caratteristiche tipiche del nostro mar Mediterraneo, il fotovoltaico ha una produzione in termini di kilowattora per metro quadro annuo pari a 160 kilowattora a metro quadro, l'eolico pari a 1000, il moto ondoso addirittura saliamo a 20.000 kilowattora per metro quadro all'anno. Che è un numero abbastanza impressionante. No, infatti, un dato abbastanza importante soprattutto per un paese come l'Italia, che ha uno sviluppo costiero abbastanza importante. Eh beh, direi proprio di sì. Senta, ecco, che differenza c'è fra il mar Mediterraneo e l'oceano? Perché a un certo punto uno si dice, come in Scozia stanno per fare 1200 megawatt, anche in Portogallo si sta lavorando in questa direzione. Allora, perché noi in Italia pensiamo di sviluppare una tecnologia nuova? Infatti, intanto diciamo che in partenza la tecnologia che noi stiamo sviluppando e sulla quale stiamo studiando qui è, diciamo, sfrutta un principio diverso rispetto a quello che stanno facendo i colleghi praticamente portoghesi, ma anche scozzesi, svedesi e comunque nel Mar del Nord. L'Oceano Atlantico ha un potenziale diverso rispetto a quello del Mediterraneo, soprattutto per quanto riguarda la forma dell'onda. È un'onda molto violenta, molto alta, però contestualmente con punte e con picchi tali, per cui non si riesce ad avere una produzione costante e da un punto di vista anche poi di durabilità dei materiali che compongono tutto quanto il generatore, chiaramente comporta tutta una serie di problematiche aggiuntive. Ecco, allora, ci parli di questo progetto Impetus. Più o meno, ecco, questi sistemi nord europei per produrre energia dalle onde sono come dei serpentoni fatti da tanti salsicciotti collegati che galleggiano sull'acqua. Non entriamo nel dettaglio di come sono fatti dentro perché non c'è il tempo. Come funziona invece il progetto Impetus? Allora, intanto il progetto Impetus, diciamo l'acronimo Impetus sta per idrogeno marino per energie terrestri utilizzabili e sostenibili. Praticamente noi che cosa stiamo realizzando? Stiamo realizzando un generatore di energia elettrica che sfrutta fondamentalmente il movimento verticale delle onde del mare attraverso banalmente un generatore elettrico lineare ad accoppiamento diretto, cioè praticamente l'onda muove una boa. Sott'acqua abbiamo un corpo morto tra il peso, insomma, morto, che sta sul fondo, quindi perfetto, tra il corpo morto quindi e la boa che sta in superficie c'è in mezzo il nostro motore lineare, che è composto da uno statore e un ratore che, muovendosi a causa del movimento verticale dell'onda, producono energia elettrica. Ecco, forse per fare un esempio, diciamo, potremmo dire una specie di yo-yo che si trova in mezzo però tra due fili, che viene messo in movimento dalla trazione di questi due fili. Praticamente, diciamo, è questo. Dopodiché questa energia elettrica, nel progetto Impetus, noi la utilizziamo per andare a produrre in loco idrogeno, cioè immettiamo questa energia che produciamo praticamente in un elettrolizzatore che utilizza direttamente acqua del mare e lì in loco, nella boa dove produciamo energia, produciamo pure idrogeno. Perché avete pensato di produrre idrogeno e non di fare come si fa normalmente, cioè di, come dire, trasformare l'energia elettrica prodotta in una forma compatibile con la rete elettrica e quindi distribuirla? Diciamo, questo è uno scenario che noi stiamo perseguendo, che ci è sembrato molto interessante, chiaramente anche quello di convogliarla nella rete, sono altri scenari possibili. Quindi non si esclude questa applicazione? Questa è un'applicazione per noi abbastanza affascinante perché permette sul posto quindi eliminando tutta una serie di costi addizionali anche in termini di emissioni, quindi che si avrebbero in fase di trasporto, produzione e così via. Di trasporto, sì, arriva della corrente elettrica, si intende. Sì, sì, sì. E quindi praticamente poi di utilizzarla direttamente in loco per produrre quindi idrogeno, che è un vettore energetico piuttosto che un'energia in se stessa alternativa, può essere poi utilizzato altrove dove si ha la la necessità. Ecco, se non sbaglio voi state anche pensando di realizzare delle boe, adesso siamo alla prima appunto al primo prototipo, ma state pensando dei campi di boe che possono anche avere più funzioni, non solo quella di produrre energia. Sicuramente. Allora, intanto c'è da dire che noi siamo per nell'ordine di idee di non fare la mega boa da un megawatt, ma piuttosto fare un campo boe con ogni boa con una potenza dell'ordine di 100-200 kW, che però collegato opportunamente tra di loro, quindi in un campo boe possiamo avere delle produzioni tarate rispetto al sito in oggetto e rispetto alla richiesta che abbiamo. E contestualmente l'utilizzo in concomitanza con un'indicazione, un orientamento dell'Unione Europea, che è quello di realizzare una rete di monitoraggio del mare, sia per la prevenzione tsunami, ma soprattutto per andare a valutare l'innalzamento delle acque in concomitanza con lo scioglimento dei ghiacciai. Va bene, grazie Franzitta. Ok, arrivederci. Grazie per averci seguito fin qui. Mr. Kilowatt torna domani per parlare di solare termico, i ben noti pannelli solari per scaldare l'acqua che sono spesso sottovalutati. Buona serata.